Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1865, ancora una stretta fiscale. Chi è più vicino al ministro delle finanze, Quintino Sella, gli sente ripetere in queste ore che non ha avuto scelta. La condizione finanziaria del regno è molto difficile. Quando si è unita l'Italia, 4 anni fa, il rapporto tra debito e prodotto interno lordo oscillava intorno al 45%. Le ultime proiezioni si basano su un probabile incremento delle spese militari, visto che la tensione con l'Austria sembra salire, e su quasi certi investimenti in infrastrutture, giacché si prevede la costruzione di quasi 400 chilometri di ferrovie solo quest'anno. Le proiezioni indicano che di questo passo si arriverà ad un rapporto tra debito e PIL intorno al 100% entro la fine del decennio. I timori sono molti. Fra le altre cose c'è da fronteggiare la scadenza di 200 milioni di lire di buoni del Tesoro, con un rendimento molto alto, intorno al 7%. La Camera ha quindi dato il via libera ad una serie di misure d'emergenza per aumentare le entrate. Saliranno le tasse su sali e tabacchi, è già arrivata un'imposta sulle lettere. Dall'anno scorso è in vigore quella sulla ricchezza mobile, contro la quale le proteste sono arrivate fino alla violenza. E da quest'anno è arrivata una ritenuta sugli stipendi di impiegati civili e militari dello Stato, del 2% per chi guadagna tra 0 e 1.200 lire, del 3% fino a 2.000 lire, del 4% fino a 3.000 e così via fino ad un massimo del 16%. Ma nella nuova capitale, Firenze, si valutano anche altri modi di fare cassa in queste ore. L'esecutivo ha deciso di affidare ad una società anonima la vendita di alcuni beni demaniali, facendosi anticipare subito 40 milioni di lire, e poi il via libera ad una nuova emissione obbligazionaria da 200 milioni. Il vero problema è la crescita, osservano gli economisti. Un tasso dell'1,8% di incremento del PIL, come quello che si è avuto l'anno scorso e si prevede per quest'anno, per un paese in gran parte poco sviluppato e poco industrializzato, è decisamente poco. E i dati preliminari sulla bilancia commerciale di questo 1865, con un passivo di circa 400 milioni di lire, lasciano poche speranze. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.